Come una vela che corre verso il vento, come una luce stanca che cerca il suo tramonto, io sto cercando un uomo che capisca cosa voglio. Cercare lui, amarlo in un momento, potergli dire vengo, vengo e ti appartengo, e poi trovare il sole, tanto sole, cosa voglio? Cercare un buco nel muro dell'inverno per riveder l'estate e ritrovare i fiori per vivere ed amarti finché non muore il giorno. Credere ancora che fra tanta gente ci sei tu che mi vuoi, ci sei tu che mi ascolti, chissà se poi è vero, chissà se poi è vero, cosa voglio. Nel primo verde della primavera poter dimenticare che tutto ciò che nasce non cambierà colore, non morirà col freddo. Cosa voglio? E poi tornare di nuovo verso il giorno e ringraziare te di questo bene grande e vivere in amore, amore, tanto amore.